Essere e benessere di Nicoletta Carbone. John Lennon, più che una canzone, un inno alla donna, alla sua unicità, alla sua femminilità. In un punto Lennon dice addirittura che si sente per sempre in debito nei confronti del mondo femminile. E allora, care amiche, cari amici, quale migliore inizio per una puntata che vuole parlare proprio di femminilità, un universo al quale appartiene la metà dell'umanità e che è in continua evoluzione e cambiamento. Ne parleremo oggi con molti ospiti, ma ne parleremo soprattutto con voi. Se vorrete chiamarci al nostro numero verde 800 24 00 24 oppure scriverci al 349 238 6666 per costruire insieme a noi la puntata. In linea con noi vi presento subito la professoressa Rossella Nappi, ginecologa, endocrinologa e sessuologa dell'Università di Pavia. Buongiorno, bentornata, è un grande piacere. Buongiorno Nicoletta, a tutti gli ascoltatori. Lei, dottoressa, è la nostra osservatrice privilegiata dell'universo femminile. Cosa impara lei come donna dalle donne che incontra tutti i giorni per il suo lavoro e soprattutto che cosa con il suo lavoro lei si sente di poter mettere a disposizione del mondo delle donne ogni giorno? Ma quello che ho imparato in quasi 25 anni di professione di medico della donna, perché il ginecologo è questo, e l'equilibrio femminile è meraviglioso, però è anche molto delicato proprio perché si basa su una ciclicità che è legata alle varie fasi del ciclo mestruale e quindi agli ormoni che cambiano e che rendono la biologia della donna forte ma anche vulnerabile. E dunque il ginecologo quello che deve fare è cercare di guidare la donna in tutti i momenti di cambiamento, dall'adolescenza alla menopausa, alle varie fasi del ciclo, alle principali scelte della riproduzione, in un'ottica che non deve essere più di cura delle malattie, ma deve essere innanzitutto di prevenzione e salvaguardia della salute e allontanando la malattia quanto più possibile. In linea con noi c'è anche una grande amica della nostra trasmissione, l'attrice e scrittrice Alessandra Faiella, autrice di molti libri, che posano uno sguardo particolare sul mondo di noi donne. A noi sono piaciuti tutti, ma qui potrei ricordare in modo particolare Autostimami, breve corso di ironia per acquistare sicurezza di sé e vivere meglio, di cui abbiamo parlato più volte anche nella nostra trasmissione. Ciao Ale! Ciao Nicoletta, ciao a tutti. Se vuoi adesso ti do un'anteprima, non te l'ho detto neanche ieri quando ci siamo sentite. Sto scrivendo una cosa nuova. Addirittura, un'altra. Una bomba. Ma sono contenta. Una bomba nel mondo femminile sarà, si chiama la versione di Barbie. Non è uno scherzo. No, è vero, mi piacerà, è vero, sicuramente. Quando uscirà? No, lo dico perché parla ancora una volta di temi femminili, ovviamente in chiave comica, si parla di vari stereotipi che ci inculcano sin dalla nascita, poi dall'adolescenza, poi tutto un attraversamento della vita femminile dalla nascita alla vecchiaia, di tutti gli incubi che ci ossessionano. Uscirà e quindi, a gennaio. Senti, i nostri ascoltatori, le nostre, anche la casa editrice non ve ne frega un tubo. Ma no, dai, dillo. Non si deve. Non lo so. Si scaramanticamente non si lo dice. Sai. Non lo dico. Non lo dice. Allora, però io potrei dire alle nostre amiche che se vogliono così dare uno spunto, un suggerimento ad Alessandra Faiella, sono ancora in tempo. Si accettano suggerimenti? Tantissimo, anzi ecco. Scrivetemi alla mia mail alessandrafaiella@libero.it se avete spunti, suggerimenti, poi vi citerò nel libro perché non mi piace rubare le idee. Ecco, e possiamo farlo punto è di possiamo farlo, Alessandra, già fare una piccola scrematura in onda. Avremo la supervisione della professoressa Nappi, che da ginecologa è un'attenta conoscitrice del mondo femminile. 800 24 00 24, si accettano idee, ma soprattutto, Alessandra, te chiedo proprio di, con il tuo magnifico senso dell'umorismo, di darmi una definizione di femminilità e magari anche il segreto con cui tu nutri con intelligenza e ironia proprio il tuo personale modo di essere donna. Mamma ti piace mia, questa questa domanda? È una domanda spaventosa, enorme, gigantesca, e poi il senso dell'umorismo di oggi è intaccato, che c'ho l'otite, quindi sono nervosa. Comunque cercherò di dare una risposta esaustiva. Io cerco di essere donna seguendo il più possibile quello che è il nucleo di Alessandra, cioè quindi cerco il più possibile di ascoltare quella che è la mia percezione della femminilità, perché tante volte ho discusso e anche litigato con le mie amiche che partono con i trip, no perché la femminilità è questo, invece il maschile è quello, e si inerpicano in discussioni anche contraddittorie. Assolutamente. Cominciano a dire perché l'uomo è più razionale. Dico, ma siamo sicuri? Perché noi non siamo razionali? No, ma perché la donna è accogliente ed è più sensibile. Sì, ma allora non ci sono uomini sensibili, rispondo io. E finiamo in un ginepraio. Allora, secondo me, la cosa migliore è ascoltare se stesse e dare la propria definizione di quella che è la propria essenza e la propria femminilità. Ho dato una bella risposta. Non lo so, ce la facciamo dire da Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, un uomo in trasmissione. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutte e a tutti. Cosa ti sembra? Hai sentito già due interventi, la professoressa Nappi, le tappe della donna e la lettura la definizione di Alessandra Faiella. Ma mi sembra proprio che avete inquadrato molto bene, con molta intelligenza, il tema di oggi. Tra l'altro tutti i giornali del mondo proprio ieri raccontavano i risultati di una ricerca condotta negli Stati Uniti che affermano definitivamente che le donne sono più intelligenti degli uomini. Uno di quegli stereotipi che era resistito nei secoli, per cui per tantissimi motivi non veniva riconosciuto un QI identico a uomini e donne, e adesso addirittura scopriamo che le donne ne sanno molto di più. A me è piaciuto molto anche poi l'osservazione che ha fatto Alessandra, vale per gli uomini e vale per le donne, cioè riuscire a diventare se stessi centrando l'individuazione di sé su un focus interiore, cioè io sono unico e speciale e io sono come solo io posso essere e so essere, che è l'esatto contrario. Credo che questa è stata un po' la condanna anche del concetto di femminilità, essere come gli altri invece volevano che tu fossi. Questa credo che sia la grande rivoluzione, intanto nel mondo della femminilità, che noi uomini osserviamo con grande curiosità, con grande stupore, con grande meraviglia, a volte anche con grande spavento. Allora, io direi che siamo pronti con i nostri compagni di viaggio per partire e per esplorare in lungo e in largo il concetto di femminilità, e io, se siete d'accordo, lo trasformerei un po' in un viaggio che ha delle stazioni diverse. Ogni stazione ha le sue caratteristiche, le sue opportunità, magari anche le sue criticità, e utilizzerei le stazioni principali che incontriamo lungo il viaggio della nostra vita. Alberto, voi le chiamate fasi di vita. Iniziando proprio da te, quali sono secondo te le tappe principali che dovremmo visitare in questo viaggio? Ma io, la nostra vita è fatta di tantissime fasi, tantissime tappe, ma proprio esplorando il tema della femminilità, anche quello che emerge un po' come passaggio critico nel lavoro che facciamo noi terapeuti, io penso tantissimo il tempo dell'adolescenza, poi il tempo dell'adultità, che per una donna è anche chiamato l'età fertile, e poi una vera rivoluzione, penso negli ultimi 20 anni, il tempo della menopausa, che ha completamente rivoluzionato il modo di pensare alla femminilità e credo per le donne anche il modo di vivere la femminilità. Professoressa Nappi, effettivamente le tappe che ha indicato Alberto sono quelle in cui voi ginecologi diventate proprio i migliori alleati del percorso di realizzazione di una donna, no? È vero, assolutamente. E quello che dicevano Alessandra e Alberto è perfetto. L'adolescente di oggi ha questo problema. Da un lato ha dei modelli di femminilità che vengono da madre in figlia, ma vengono soprattutto dal mondo che ci circonda, dal mondo dei media, da quello che le ragazze vorrebbero essere, che una donna dovrebbe essere. Dall'altro però, naturalmente, il cambiamento biologico fa sì che il corpo si colori di una femminilità che dipende effettivamente dalle variazioni biologiche. Pensiamo a una ragazza che cresce in altezza, che ha una silhouette femminile rispetto a un'altra che ha acne, peluria e irregolarità mestruali. Allora l'adolescenza diventa una fase più conflittuale quando le cose non vanno per il verso giusto, più bella, più naturale quando la natura ti ha dotato di tanti talenti, soprattutto la bellezza e la seduttività, e in questo il ginecologo gioca un ruolo fondamentale, perché nel progetto che fa con la sua adolescenza, perché femminilità significa poi scoprire anche la possibilità della coppia, della sessualità e di tutto un mondo, no? che si viene a scoprire ogni giorno, è un momento in cui si deve fare un progetto, e il ginecologo non deve dare la sua impostazione, ma deve aiutare la giovane adolescente a credere e a costruire il suo progetto, e questo passa attraverso tutta una serie di scelte. Per esempio, la più importante di tutte nell'adolescenza è anche la scelta contraccettiva, quindi una consapevolezza della propria femminilità intesa come sessualità, come andare verso il mondo, esplorare il mondo verso il partner. 800 24 00 24, se volete parlarne con noi. In che tappa siete? Possiamo naturalmente parlare anche delle donne che ci stanno accanto, penso alle mamme che ci stanno ascoltando, alle figlie che stanno affrontando l'adolescenza o alle amiche che si stanno avvicinando alla menopausa. Molte di voi mi stanno già scrivendo, la professoressa Nappi ci darà sicuramente delle indicazioni, ci aiuterà a capire come queste tappe della vita di una donna si sono trasformate grazie anche alla ricerca e a una maggiore conoscenza che le donne hanno del loro corpo, del loro benessere. Alberto. Sì, io riflettevo su quello che diceva la dottoressa Nappi. Credo che per esempio per noi genitori, in particolare per le mamme, osservare le proprie figlie adolescenti crescere oggi nel mondo di oggi è veramente un po' come stare davanti a un film. È cambiato, non è cambiata la loro programmazione biologica, però è cambiato il mondo, il contesto in cui le nostre figlie crescono, diventano donne, in qualche modo usano l'adolescenza come una palestra in cui fare esercizio di adultità. In questo senso è davvero interessante il titolo del libro che sta scrivendo Alessandra Faiella, la versione di Barbie, perché oggettivamente tutto questo mondo di stereotipi che fino a ieri aveva ingabbiato le donne a un ruolo che le rendeva un po' lì chiuse dentro casa, oggi rischia di ingabbiarle in un altro ruolo che magari è l'esatto contrario, ma un po' le incatena, come nella stessa esperienza che a volte ha reso difficile l'essere donna delle nostre nonne o delle nostre mamme. Ma lancio la provocazione ad Alessandra. Esattamente, io sono felicissima che tu abbia lanciato questa provocazione, il titolo mira proprio a questo, no? A evidenziare come oggi c'è il rischio di una regressione rispetto a certi stereotipi che sono la condanna forse ancora peggiore a quella della casalinghitudine, per cui questa Barbie che da anni è il modello, no, a cui ancora molte bambine, molte ragazzine fanno riferimento, che è sostanzialmente questa modella decerebrata, semi-anoressica, perché hanno fatto un esperimento per cui se la Barbie fosse reale avrebbe delle forme sostanzialmente da anoressica. Quindi questa modella decerebrata e anoressica che ha come unico scopo nella vita quello di vestirsi, spogliarsi e sedurre un tronista, perché poi sostanzialmente questo è il ruolo di Barbie, è un po' ancora il modello di tante bambine, di tante ragazzine di oggi. Poi una cosa interessante che leggevo, che una dottoressa, una psicologa anglosassone, la dottoressa Nairn, ha visto che alcune ragazzine arrivate all'età dell'adolescenza prendono la Barbie, la mettono nel forno a microonde e la fanno esplodere, giuro questa cosa è vera, oppure la prendono e la percuotono selvaggiamente sugli angoli dei tavoli facendo saltare la testa. E questo è bellissimo perché secondo me è una ribellione a questo stereotipo, è una ribellione alla consapevolezza che se seguirai per tutta la vita l'incarnazione nel modello di Barbie finirai anche tu per fare sostanzialmente una vita di merda. Una vita da Barbie. Una vita da Barbie, che a mio parere è abbastanza. 800. Che vivere vestirsi, spogliarsi e flirtare con un tronista, io definisco così, poi ognuno naturalmente è libero di definirla come vuole. 800 24 00 24, professoressa Nappi, intanto io vorrei continuare il viaggio raccogliendola così anche l'invito di Alessandra Faiella per le nostre ascoltatrici di suggerire stimoli, riflessioni. Stiamo praticamente, scriveremo almeno una paginetta insieme del libro di Alessandra Faiella. Ma professoressa Nappi, io vorrei andare avanti, perché il nostro viaggio dall'adolescenza arriva alla adultità, la chiamano così, l'età fertile, le ragazze crescono. Professoressa Nappi, un momento lungo della vita di una donna, un momento in cui ci sono tante stimoli, tante cose da fare, tante scelte da operare. Adesso si diventa mamme sempre più tardi per una serie di ragioni, abbiamo dedicato delle puntate, ma io vorrei con lei fermarmi in questa tappa. Voi ginecologi dite l'età fertile di una donna. Professoressa Nappi, quale attenzione, che cosa è cambiato? Come sono cambiate le donne di oggi rispetto alle loro mamme, ancora delle passate generazioni? Le donne di oggi, carissima, non hanno più un destino biologico nella maternità, ma hanno una scelta attiva, una scelta consapevole. Quindi questo tempo lungo, chiamiamolo così, della vita fertile, si deve riempire di una serie di significati. Innanzitutto, la donna prima cerca di realizzare chi vuole essere e dunque si crea in buona sostanza un conflitto tra maternità e lavoro, nel senso che la maternità viene sempre più spostata in avanti, sia perché giustamente la donna cerca di realizzare dei suoi obiettivi, ma anche cosa cerca di fare, di riuscire poi a fare il suo progetto di maternità con quell'uomo che ha scelto, con cui sarà in una posizione più di equilibrio, quindi meno di dipendenza, meno di attaccamento, ma più di scambio reciproco. E questo naturalmente richiede un certo tempo. Però il ginecologo ha un problema, che quanto più la donna progetta in avanti questa grande fatica che è la maternità, tanto più possiamo avere delle difficoltà, perché nell'arco della vita fertile molte cose possono succedere che possono interferire con la fertilità. Pensiamo a patologie di ogni genere dell'apparato genitale, pensiamo alle malattie a trasmissione sessuale che possono interferire con la nostra fertilità, ma anche e soprattutto il ginecologo ha il compito di far capire alle donne che l'età della maternità è stata disegnata dalla natura non così tardi, e quindi oggi ci troviamo delle donne quarantenni che si sentono ancora giovanissime, che si sentono pronte per diventare madri, ma purtroppo a 40 anni talvolta, almeno per 2 donne su 10, può essere difficile avere un primo bimbo, e quindi il nostro compito è informare. Ed è quello che cerchiamo di fare oggi. Se volete, se avete dei dubbi e avete delle richieste, 800 24 00 24. Alberto, questa rivoluzione che ci ha appena raccontato la professoressa Nappi ha avuto un impatto naturalmente non solo su noi donne, ma anche nel modo in cui voi uomini ora vi rapportate con il mondo delle donne e delle vostre compagne. Ma io penso proprio di sì, e credo che questa sia stata un'opportunità meravigliosa non solo per le donne ma anche per noi uomini. Cioè, ci troviamo oggi di fianco a donne che per esempio ci hanno reso certamente uomini migliori, certamente padri migliori, e io che mi occupo di paternità posso proprio dire che la rivoluzione femminista, che ha reclutato sulla scena gli uomini nel ruolo paterno e quindi non ha affidato a loro solo il portare a casa lo stipendio ma proprio i gesti della cura e degli affetti nei confronti di un figlio, non ha aggiunto nuove fatiche a noi uomini ma ha dato a noi uomini nuove opportunità per completare proprio lo sviluppo della nostra umanità, della nostra dimensione esistenziale. Credo che questa nuova donna che abbiamo a fianco dentro una coppia aumenti proprio anche le richieste, le esigenze, la complessità del fare coppia insieme. Questo, non so, io lo vedo anche nel mio lavoro di terapeuta, è un viaggio meraviglioso. State pronti, Vi vogliamo attenti e preparati. Maria Cristina da Modena, buongiorno. 800 buongiorno. 24 buongiorno. 00 24. Benvenuta Maria Cristina. Buongiorno. Io volevo così parlare un attimo, illustrare in 2 minuti la mia esperienza personale e Perdonatemi, non ho mai parlato di me a una trasmissione telefonica, quindi radiofonica, quindi sono un po' così, forse emozionata. Ecco, io vengo da un'esperienza per me faticosa, dolorosa e bellissima di un percorso di analisi. E adesso ho 50 anni, devo dire che è stato un modo per salvarsi la vita, nel senso... è stato il modo per capire chi ero io e chi ero io come persona e come donna, proprio come donna. Questo mio percorso che poteva continuare tutta la vita è giunto a compimento da poco tempo e devo dire che è stato proprio la fortuna di poter guardare fino in fondo dentro di me che mi ha fatto scoprire quella che sono adesso e quindi anche il mio essere, proprio essere donna. Quindi Maria Cristina ci ha raccontato in breve, poco un minuto, un viaggio, Alberto, che è un viaggio che molte persone hanno, no? Il piacere, il coraggio, la forza di affrontare. Sì. Un viaggio alla riscoperta di sé attraverso l'analisi, in questo caso. Grazie Maria Cristina per averci chiamato e condiviso con noi la sua storia. Ma grazie. Direi che è un... Buongiorno. È un percorso naturale, ognuno dovrebbe farlo, è un dovere verso se stessi, è un diritto per ognuno di noi, non tanto avere un terapeuta, ma avere la possibilità di autonarrarsi e di narrarsi alle persone a cui vogliamo bene il nostro percorso di vita e chi noi siamo o vogliamo essere e diventare. Per qualcuno è così difficile che effettivamente il terapeuta diventa uno specchio meraviglioso con cui poterlo fare in un contesto protetto e che ci fa crescere. Bello, ma anche un modo di definire la femminilità. Pretty in inglese, l'equivalente di positivo, bello. Proprio l'aggettivo che ci piace attribuire allo straordinario lavoro che la prevenzione ha fatto in questi anni per noi donne. Un lavoro che non può non essere considerato pretty. E saluto subito il professor Alberto Luini che è in linea con noi. Professore, grazie. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Direttore della divisione di senologia all'Istituto Europeo di Oncologia. Professore, le campagne di informazione stanno funzionando, hanno funzionato e noi donne siamo più attente alla nostra salute e alla salute anche del nostro seno. Beh, indubbiamente in questi ultimi anni c'è stato un forte sviluppo di campagne di prevenzione organizzate, quindi parliamo degli screening, quindi utilizzo di mezzi strumentali, prevalentemente la mammografia su larga scala di donne sane, asintomatiche, e anche una forte richiesta che è in grande aumento da parte delle donne di sottoporsi periodicamente in maniera spontanea ad esami di tipo diagnostico. Oggi le donne, devo dire, sono veramente molto molto attente alla salute del proprio corpo e io, facendo il senologo, mi riferisco naturalmente al seno. Certo, professore, questa attenzione ha avuto delle conseguenze molto positive. Di tumore al seno si guarisce oggi? Beh, diciamo che c'è stata una svolta notevole. Perché oggi noi osserviamo la maggior parte dei tumori mammari che noi osserviamo oggi sono tumori molto molto piccoli che non vengono più scoperti come in passato dalla donna che o attraverso l'autopalpazione o semplicemente perché casualmente poneva la mano sul proprio seno e quindi scopriva un nodulo. Oggi queste lesioni sono scoperte da esami strumentali, dalla mammografia, molto frequentemente dall'ecografia, e quindi lesioni così piccole, mi riferisco a noduli, a piccoli noduli al di sotto del centimetro o anche di pochi millimetri, giovano di un trattamento molto mirato, sempre conservativo sulla mammella, conservativo sui linfonodi ascellari e con un'integrazione anche radioterapica che viene spesso effettuata durante l'intervento chirurgico, e questo unitamente alle terapie che vengono sempre effettuate dopo l'intervento ha portato a dei tassi di guarigione che sono vicini al 97-98%. Quindi è molto importante scoprire un tumore in questa fase, prima quindi che possa creare dei danni importanti all'organismo. Professor Luini, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro un buon lavoro. Buona giornata anche buona a lei. Buona giornata. Grazie. Professoressa Nappi, insomma, noi donne diventiamo più consapevole, più attente alla nostra salute, al nostro benessere, seguiamo un po' con più attenzione gli screening, partecipiamo, siamo più attive in tutte le fasi della nostra vita, secondo lei? In tutte le fasi, però è una cosa che impariamo, e secondo me che impariamo tanto nella vita adulta e poi soprattutto al momento della menopausa. Forse le adolescenti oggi hanno ancora bisogno di essere seguite e di capire quanto è importante prevenire una serie di patologie, soprattutto quelle che possono interferire con la fertilità futura. Ma è certo che la donna, abituata da sempre a prendersi cura degli altri, oggi si prende anche cura di se stessa in senso preventivo, come diceva Luini, e questa è la grande sfida. Purtroppo alcuni problemi ci sono, ma se noi li troviamo in tempo, certamente vivremo anche nonostante le problematiche. Questo è importante, soprattutto nella donna che sempre di più va avanti in età, perché oggi la donna ha un'aspettanza di vita assolutamente lunghissima. Silvia da Roma e Valentina da Genova. Silvia, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci. Sì, e la mia domanda è questa. Io ho 47 anni, ho due gemelle di 16 anni, sono gemelle omozigoti, ma ultimamente, nell'ultimo anno, si sono differenziate moltissimo. La problematica è questa. Le mie gemelle non rispondono allo stereotipo della Barbie decerebrata di cui parlavamo prima, sì, per cui sono molto brave a scuola. Pur essendo delle ragazze carine, in ogni caso vengono un pochino ghettizzate, un pochino prese in giro, sono state anche insomma oggetto di mira di bullismo. E una di loro sta cercando di uscire un po' da questo modello, che a loro avviso non è vincente in questo momento, no? E l'altra la contrasta, perché secondo anche i miei insegnamenti io tendo a dire a loro che sarà vincente nel futuro, che ci sarà una selezione poi delle persone che si presenteranno a loro, però è ovvio che faccio fatica a far sì che loro abbiano la consapevolezza di essere donne e quindi di piacere e di piacersi soprattutto, ma allo stesso tempo guardandosi attorno si accorgono che il modello Belen, io lo chiamo anche così. Vedi, Alessandra, già questo è un'altra indicazione, ma poi ne stanno arrivando altre. Il modello Belen, dice la nostra mamma Silvia da Roma, non premia. Ma io penso che alle gemelle di Silvia il libro di Alessandra Faiella, dobbiamo aspettarlo a gennaio, servirà assolutamente. Ma Alessandra, molte mamme raccontano questa difficoltà delle ragazze che non seguono il modello Barbie. Vorrei passare la palla a te, ad Alberto. Parlo molto, sto parlando molto nel mio libro del problema dell'adolescenza, perché è proprio il momento in cui le ragazzine formano la propria identità e quindi la propria identità femminile, e qui dove lo stereotipo si incanaglisce, si incistisce ancora di più. E è molto difficile, io ho un figlio maschio quindi non ho questo problema, ma immagino sia molto difficile per una madre, cioè ho altri problemi però, diciamo che con una figlia la difficoltà di sottrarla allo stereotipo imperante, al modello Barbie, al modello Belen, è molto difficile, ma è molto importante, credo. Questo senza, penso, ossessionarle, quindi inculcare un modello alternativo, però sempre mettere di fronte alle ragazzine i rischi dell'identificazione in uno stereotipo di donna che non lascia spazio all'intelligenza, alla creatività, agli interessi, ma che è solo un modello fisico, no? Solo di un corpo da imitare, da seguire, di una presunta perfezione, è molto importante, perché questo tipo di stereotipo porta poi le ragazzine a grossi problemi anche di identità, di insicurezza, per cui quel modello diventa irraggiungibile, una frustrazione tremenda che forse noi non avevamo, avevamo molto meno, avendo noi percorso ben altri processi con gli anni 70, eccetera, eccetera. Però è molto importante, senza ossessionarle o condizionarle, mostrare i rischi di questo stereotipo. Sì, e stare a fianco anche... perché ecco, a fare le mosche bianche si fa sempre un po' fatica, ma spesso premi. Alberto? Io credo che un'altra cosa bellissima che intuisco dal racconto della nostra ascoltatrice è che comunque in casa vostra c'è un magnifico forum aperto su che cosa significa conquistare la propria identità in un processo di differenziazione. Per le sue figlie questo lavoro di differenziarsi e di individuarsi è certamente più difficile che per gli altri, proprio perché sono nate gemelle omozigote, quindi devono in qualche modo abitare territori diversi, confrontarsi, rispecchiarsi l'una nell'altra, non più solo nella loro unicità ma anche nella loro diversità. Tenete vivo il dialogo, il confronto, la criticità e fate un po' quello che hanno fatto le donne anche per esempio all'ingresso in menopausa. Cioè, secondo me, mentre prima per moltissime donne quello era il tempo in cui si diventava tutte uguali, si stava un po' dentro a quel percorso di fine del progetto materno e di ingresso un po' nella vecchiaia, io credo che adesso invece le donne in menopausa ci insegnano che comincia una nuova adolescenza. Vita, una nuova adolescenza. E siamo tornati insieme, professoressa Nappi. La menopausa non è più una fine, ma un nuovo inizio. Una seconda adolescenza, diceva Alberto. Ricomincio da me, un ricomincio da 50, oggi così deve essere intesa la menopausa. E certo che la menopausa è una stagione della vita che può essere anche un vero rilancio, perché finite alcuni compiti la donna finalmente può dedicarsi ad altri, e questo è molto importante sia sul versante della creatività, sia sul versante della coppia e anche, perché no, del lavoro e della vita sociale. La menopausa non è uguale per tutte, ci sono donne che attraversano questa stagione in un modo molto semplice e naturale, ci sono donne per cui è più problematico, e questo dipende dalla biologia di ciascuna di noi, da una vulnerabilità individuale, ma anche da altri tipi di esperienze, un po' come si è nella coppia, le problematiche che si hanno al lavoro, coi figli, quindi diciamo un'esperienza unica della persona. Giusto confrontarsi con lo specialista, magari quando i sintomi o i segni della menopausa, le prime irregolarità, le vampate, l'instabilità emotiva si fanno sentire, perché lì è il momento. Prepararsi alla menopausa in senso preventivo, come già dicevamo, ma anche in senso terapeutico se necessario. Perché? Perché questo, oltre che farci stare meglio nella nostra qualità di vita, nel nostro corpo, nella nostra femminilità, che è il tema di oggi, diventa anche poi un momento per prevenire patologie importanti sul versante sia della prevenzione dei tumori, ma soprattutto anche sul versante cardiovascolare, l'osteoporosi, tutta una serie di patologie molto comuni che sono poi responsabili dei nostri problemi andando avanti con l'età, quando diciamo il tempo della menopausa è finito e inizia un tempo, l'età d'oro, è quella che adesso arriva più oltre gli 80 anni. Vorrei salutare, anzi voglio salutare la professoressa Flavia Franconi, ordinario di farmacologia all'Università di Sassari. Buongiorno professoressa. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, radioascoltatori. Esatto. Professoressa, io ho chiesto alla professoressa Franconi di intervenire per questa ragione, perché in una puntata dedicata alla femminilità volevo parlare anche di farmacologia di genere. Le donne, noi donne, siamo grandi consumatrici di farmaci, ne prendiamo circa il 20-30% in più rispetto agli uomini, eppure gli effetti dei farmaci sono stati studiati prevalentemente sugli uomini. Le dose medie sono calibrate su un uomo del peso di circa 70 kg. Un dettaglio che può fare la differenza e a cui adesso si sta cercando di porre rimedio. Un tema che vorrei affrontare in modo più approfondito e magari in occasione di una prossima puntata. Ma professoressa Franconi, che cosa è giusto sapere e quale avvertenza dobbiamo usare nell'attesa che si pensino a dei farmaci studiati su misura sulle donne fertili e sulle donne non più fertili? Allora, bisogna sapere che dobbiamo, le donne hanno un'abitudine di fare anche un po' di terapia ascoltando le amiche, oppure dicendo, ascoltando quello che un uomo che gli racconta, mi ha fatto bene questo farmaco. Le donne devono sempre andare, più che gli uomini, andare dal medico, perché hanno un corpo che è leggermente, che è diverso da quello maschile, e inoltre, ovviamente, come ha detto lei, le donne, mi scusi, la dose media è stata fatta per un uomo di 70 kg, le donne pesano 50 kg, pesano 10 kg meno circa, quindi sono più piccole, e questo per certi farmaci, diciamo così, ha un indice terapeutico, cioè che poi, in cui l'efficacia e l'effetto tossico sono molto vicini, può provocare più problemi in una donna rispetto ad un uomo. Quindi, professoressa Franconi, il messaggio è: nell'attesa che la situazione cambi e qualcosa sta cambiando, attenzione all'interazione tra farmaci, ma non solo tra farmaci, ma anche tra farmaci e rimedi, erbe, integratori. Sì, molta attenzione alle interazioni, perché le interazioni, per esempio, ci sono interazioni molto importanti che avvengono con i contraccettivi orali, e le donne, tra l'altro, non dicono al medico di medicina generale di prendere contraccettivi orali se non c'è una precisa richiesta. Quindi dire sempre al medico che si prende contraccettivi orali, ed inoltre perché i contraccettivi orali, per esempio, interagiscono con farmaci molto comuni, per esempio con alcuni antibiotici, e si può addirittura avere la perdita dell'effetto anticontraccettivo, mentre alcune volte si può avere un aumento della tossicità del farmaco associato al contraccettivo. Ma quello che vorrei ricordare alle donne è che quando vanno in erboristeria devono stare molto attente, perché molte, cioè, per esempio un farmaco fitoterapico usato tantissimo dalle donne, l'iperico, che viene usato per sintomi depressivi eccetera, e questo può interagire con la pillola e può far perdere attività alla pillola. Professoressa Franconi, grazie per essere stata con noi, buon lavoro, mi raccomando, lavori per noi. Grazie. Bene, grazie, arrivederci. Il nostro viaggio si sta concludendo, ma sale in corsa Maria Perosino, autrice di Io viaggio da sola, edito da Einaudi. Un libro molto interessante, il cui sottotitolo, Manuale semiserio per viaggiatrici sorridenti e solitaria, racconta bene cosa si nasconde tra le pagine di questo volume, che è un piccolo scrigno. Buongiorno Maria. Buongiorno a voi. Allora, è d'accordo con questa definizione? Un libro che è un piccolo scrigno di? Allora, è un piccolo scrigno che però io in realtà mi sono divertita ad aprire. Quello che ho cercato di raccontare, come viaggiando da soli e scoprendo un po' il mondo si aprono delle finestre, e ho voluto cercare di farlo come fosse una chiacchierata tra amiche. Una cosa leggera, divertente, ma che alla fine spero, credo, che vada anche a toccare qualcosa di molto intimo che appartiene un po' a tutte le donne, che ha a che fare con la timidezza rispetto al mondo, con diverse cose. Perché lei racconta nel libro come l'esperienza del viaggio sia diventata per lei prima occasione di fuga da un grande dolore e poi invece successivamente occasione per ritrovare totale sintonia ed intimità con se stessa, perché il viaggio può essere un vero e proprio alleato per la donna e soprattutto per la piena realizzazione della femminilità. Ma assolutamente sì, per me il viaggio è stato un modo innanzitutto di scoprire il mondo e quindi in qualche modo di uscire da me stessa in un momento in cui avevo bisogno di uscire da me stessa. Ma poi mi sono accorta che scoprendo il mondo andavo scoprendo anche qualcosa di me. Il bisogno degli altri che si ha quando si viaggia da soli ci rende molto più disponibili alle relazioni con i luoghi e con le persone che abitano questi luoghi. Allora, mi sembra che il messaggio di Maria Perosino, un invito anche alle donne a godersi la gioia di un viaggio da sole, perché no, sia il miglior messaggio con cui chiudere questa puntata, il viaggio verso la conquista della femminilità, a stazioni, tappe, magari interruzioni, anche fatiche impreviste. Ma ragazze, diciamolo, è un viaggio bellissimo di cui ognuna di noi può e deve essere fiera. Ringrazio i miei ospiti di oggi per averci accompagnato oggi in questa avventura. La professoressa Rossella Nappi, professoressa, grazie, buona giornata. Saluti a tutti. La mitica Alessandra Faiella, un vulcano di idee. Se volete scrivetele, suggeritele le vostre idee, le vostre esperienze. Alessandra, ripeti la tua mail, Alessandra. Mi trovate sia su Facebook e poi su alessandrafaiella@libero.it. Se volete darmi le vostre idee, i vostri suggerimenti. Entrate nel libro di Alessandra Faiella, spero di entrarci anch'io. Alberto Pellai, grazie per essere stato con noi, per averci guidato, e Maria Perosino, Paolo Corleoni, regia alla parte tecnica, Laura Vanossi, ho tempo, 20 secondi, Laura Vanossi in redazione. Vi ringrazio per le cose che ci avete scritto, continuate a farlo, potete seguirci su Facebook, su Twitter, ma soprattutto potete tornare con me domani.